A parte il fatto che ti voglio ancora bene, ho un maledetto orgoglio da difendere. E pensa, che figura ci farei cercarti io. Magari penseresti che mi sto arrendendo. È vero, com'è vero che con te oramai non bastano i ricordi, e tu lo sai. Sarebbe come far del male in più a uno di noi due che non sei tu. Oramai il cielo si è strappato su di noi. Raccogli le mie stelle, le offro io. Chi si sta prendendo il posto mio? E strappo come un calendario i giorni della vita tra vecchi amici e solitudine. Ho perso l'abitudine di te, parola mia. E litigo ogni tanto la nostalgia. Se lei che vince sono affari miei. Oramai non bastano i ricordi, e tu lo sai. Sarebbe come far del male in io lo farei.